Scusi, ma noi ci conosciamo? Lei no, ma io sì. Adelina mi parlava sempre di lei, Paolo. È un parente di Crotone? Molto di più di un parente. Adelina le voleva molto bene, sa? Ma scusi, ma lei? Ma lei chi è? Che importa il nome? Ormai di fronte alla morte non resta che la comprensione e il perdono. Tutti e due l'abbiamo amata. E lei ci ha amato tutti e due. Me più fisicamente, più ma carnalmente. Te più spiritualmente, Paolo. Ma cosa sta dicendo? Lei è stato... Adelina è stata... Per questo il mio dolore è pari al tuo. Possibile. Noi siamo fratelli nel dolore, Paolo. Ma non è possibile. Adelina, proprio tu. Ma dove, quando? Quando? A me sembra di averla sempre amata. È stato quando ho fatto quel corso di elettronica in Germania, vero? Non si deve mai andare in Germania, Paolo. Ma vieni fra le mie braccia, Paolo. Io ho un unico desiderio ormai. Diventare tuo amico. E voglio invecchiare accanto a te. Nel ricordo della nostra adorata Adelina. Sposa e amante impareggiabile. Impareggiabile? Impareggiabile, troia! Puttana! Non ti permetto di oltraggiare la mia Adelina, eh? La storia del rock ci ha regalato innumerevoli momenti magici, ma i lettori di Mojo nel 2003 hanno decretato il vertice, il momento più rock della storia del rock and roll. Tre erano le ipotesi possibili. È forse la pubblicazione nel 77 di White Riot dei Clash? Beh, ci siamo andati vicini, ma no. No, non è questa. Ha ragione, ci siamo andati vicini perché... questo è stato catalogato come al terzo posto della classifica. E allora forse le incisioni di Elvis Presley nel 1954, annata di ferro, di That's Alright Mama. Ma se sono avvenuti nel 1954, sì, non può che essere la risposta, eccola, giusta. Complimenti. Tra l'altro segnaliamo che gli inglesi, sì, solitamente che si chiudono a riccio, hanno votato un accadimento americano. Vero, sono stati molto onesti, molto sportivi. Il vertice, secondo Mojo, del rock and roll. Segnaliamo al secondo posto la svolta elettrica di Bob Dylan, ma anche l'uscita di Please Please Me dei Beatles del 63, oppure Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Poi in questa classifica ci sono anche i debutti di Sex Pistols, degli U e dei Police. Quindi l'ipotesi 3, la soluzione C, sì, l'arresto di John Lennon e Yoko Ono, esatto, per possesso di marijuana avvenuto nel 1967, era così la solita... Forse sono neanche stati arrestati nel 67, era totalmente inventata, sì, ed era la classica ipotesi per confondervi. Se avete azzeccato, bravi. Se avete sbagliato, male. Restate su Rock FM, dove il rock è per tutti. Bravo, grazie. You ain't nothing but a hand dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hand dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Nothing but a hound dog crying all the time. an old friend of mine. Mr. Elvis Presley, Hound Dog. 8 e 35 minuti primi, ultima mezz'ora di diretta. Benvenuti, benvenute se vi siete sintonizzate in questo istante. Puntata delirante da non perdere. Il consiglio, se vi siete persi la prima ora e mezza di diretta, riascoltatevela su RadioRockFM.com. Se ne sono sentite di cotte e di crude, come per esempio la nostra nuova campagna a favore della festività di Ogni Santi, scelta grazie alla votazione popolare di ieri. Campagna di pane, burro e rock and roll, che recita più o meno così: spettri, fantasmi, zombies, zucche intagliate, fastidiosi adulti vestiti in modo sconveniente, improbabili serate in locali notturni. Anche quest'anno, tra poco, le nostre città verranno invase. E tutto per colpa di una festa che affonda le sue radici nella tradizione anglosassone. Halloween. Ma pane, burro e rock and roll non ci sta. E scatta la campagna a favore di Ogni Santi. Auguri in anticipo a tutti coloro che un santo vero e proprio non ce l'hanno. Buon onomastico a Calanico, Calpurnia, Carponio, Casilda, Chiaffredo, Cleofe, Cleandro, Cointa, Climaco, Cuzia, Damaso, Deanna, Didimo, Degna, Divo, Delinda, Durante, Dianora, Doda, Dulina. Rivalutiamo la festa di Ogni Santi. Riappropriamoci delle nostre tradizioni. Vi ricordo che se avete riconosciuto in qualcuno di questi nomi un santo, e quindi un errore del nostro redazionista che ci ha fatto leggere dei nomi sbagliati, potete segnalarlo al 335 100 7777, e Isacco ci darà 10 euro per ogni nome sbagliato. Siamo già a 20, eh? Isacco, preparati, siamo a 20. Pane, burro e rock and roll, ed è subito Pelle d'Oca. Gustatevela tutta. The Great Gig in the Sky, Pink Floyd. Che roba, pane, burro e rock and roll. And I am not frightened of dying. Any time will do, I don't mind. Why should I be frightened of dying? There's no reason for it. You gotta go sometime. Thank you. Che roba, ragazzi. Pink Floyd. Non ho parole, se non tenterò di spiegarvi cosa andiamo a fare in questo momento. Nel vano tentativo di allontanare la rubrica delle canzoni dei Beatles cantate in italiano al più tardi possibile, riapro una questione che ci sta molto cara qui a Pane, Burro e Rock'n'Roll. Viviamo in anni in cui avere una famiglia non è semplice. C'è il mutuo da pagare, bisogna tirare la cinghia, storie di euro, storie di stipendi bassi. Insomma, avere dei figli oggigiorno è una scelta, insomma, stimabilissima. È difficile portare avanti una famiglia oggigiorno, ma soprattutto, e mi rivolgo al pubblico di Rock FM, c'è una cosa veramente difficile: educare in maniera rock i vostri figli, soprattutto se vostra moglie rema un po' contro. Lui si chiama Massimo, mi scrive via mail ad ariel@radiorockfm.com e io gli permetterei di sfogarsi con noi. Massimo da Pescia, benvenuto. Buongiorno. A Pane, Burro e Rock'n'Roll. Buongiorno, ciao Ariel, ciao Fichetto, ciao a tutti. Innanzitutto stima massima per te. Grazie, non ho bisogno. Il problema partiamo subito. Figlia Ilaria, sì, 13 anni, va a scuola, sì. Cosa fa di bello? Io è terza media, naturalmente, compagnie varie, niente, la storia è che 5 anni fa, sì. Fece una presentazione a scuola con degli strumenti, violino, chitarra. Lei poteva scegliere tra violino e chitarra e ha scelto violino? Anche pianoforte, anche canto. Sì. Però si innamorò del violino. Ok, beh, è sempre uno strumento, infatti, quello che ho pensato io. Ha cominciato 3 anni di violino, però in 3 anni è sempre andata un po' calando questa passione. Sono giovani. Sì, va bene. Fino a quando, insomma, ha detto non ce la faccio, insomma, è troppo impegnativo. Ha mollato. Allora ha mollato. E allora ho detto: guarda, non smettere di fare musica. Bravo. La musica, prova a fare canto, forse meno impegnativo. Ottimo. Perché a casa uno si allena in qualsiasi momento. Esatto. Non ha bisogno di fare lo strumento, accorda, eccetera, eccetera. E così ha cominciato canto. Devo dire che lei, poi, stazionata dalle amiche, come gusti musicali, sì, è partita dai Blu. No, è colpa delle amiche. È quell'ambiente, è quell'ambiente scolastico lì che è malato, Massimo. Non è colpa tua. Sì, però, dato che sono qui per sfogarmi, sì, c'è mia moglie che mi rema anche contro. Che cosa fa ascoltare tua moglie? Mia moglie non ascolta Rocky. Mia moglie, il suo massimo idolo è Ramazzotti. Sì. Quindi le becchi ogni tanto, loro due, tutte e due femmine, capito? No, per fortuna però lei, cioè mia figlia Ilaria, sì, da quando specialmente ha cominciato a cantare, sì, sa riconoscere i cantanti che cantano bene da quelli che... Bravo! Così così. Beh, no, quindi... però perdonami, permettimi di spezzare una lancia a favore di Eros Ramazzotti, può piacere o non piacere, ma canta bene. Ma sai, quella voce nasale. Bravo, bravo Massimo, mi piace così. Sai che sono qui, le dico tutte oggi. E allora cosa le fai ascoltare? Tu dicendo: guarda Ilaria, devi diventare così. Ma dopo, già grazie alla maestra di canto, sì, siamo già riusciti a portarla su altri cantanti, insomma, Battisti, Mina. Bravo. Insomma, già gente un po' più qualificata. Quindi me, c'è connivenza con la maestra di canto. Abbastanza, da questo punto di vista, senz'altro. Poi quando io la porto appunto a queste lezioni in macchina con me, quindi o mettiamo Rock FM, bravo, oppure CD della mia musica. Bravo, fai benissimo Massimo. Per ora l'unica cosa che sono riuscito però un po' più a portarla è qualcosa dei Boston. Ah, perché apprezza le doti vocali del cantante. Sì, sì. Senti, anche la musica le piace abbastanza. La mia grande passione, che sono i Kiss, ancora dura, è un po' dura. Sei comunque chi... diciamo che The Blue poi adesso è passata verso i Finlay, che non è il massimo nemmeno quello, ma però aspetta, ma... Massimo, accontentiamoci, insomma, dai Blue ai Finlay già piano, il passo piano, è stato fatto piano. È dura, Massimo, ma noi è ti dura. Stiamo vicino quando come vuoi, diciamo... Quando vuoi sfogarti, noi di Pane, Burro e Rock'n'Roll siamo con te. Bisogna inventarci. La speranza è che la nicchia vinca, poi. Assolutamente. Massimo vincerà, ne siamo convinti. Salutaci tua moglie e buttale via i CD di Ramazzotti. Non credo. Non dire che sei stato tu, li butti via e dici, boh, saranno entrati i ladri. Una roba così. L'idea può essere buona, ma tanto poi ci sono gli MP3, sai? Mannaggia. Viene sempre fuori. Massimo, un saluto a Ilaria, ci sentiamo presto. Grazie, ciao a tutti. Ciao. Ai ai ai, ci siamo pronti anche quest'oggi. per gettare al vento le nostre carriere musicali, pronti per la rubrica intitolata E se i Beatles fossero nati a Sanremo? Non solo, ma aggiungo, se i Beatles fossero nati a Cinisello Balsamo. Se i Beatles fossero nati a Montecatini Terme. Se i Beatles fossero nati a Salso Maggiore. Certamente in uno dei loro primi album non avrebbero potuto cantare Love Me Do. No. No, assolutamente no. Avrebbero cantato quello che segue, perché noi siamo filologicamente inappuntabili. Il nostro stagista impagabile impagato è già pronto con il suo chitarrino. Io pure, maestro, se lei se la sente, interpreterei questa Amami Tu in maniera filologicamente precisa, come ci tiene sempre a precisare lei. Il sottotitolo potrebbe essere, se me lo consente, Cosa hanno veramente detto i Beatles, alla lettera. Noi, maestro, ci siamo. Ragazzi, Love Me Do, Amami Tu, con impegno e serietà. 1, 2, 3, 4. Onesto con tu, ti prego, amami tu. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, amami tu. Wow, wow, wow, wow, amami tu. Amami tu, lo sai, lo amo tu, onesto con tu. Prego, amami tu. Wow, wow, wow, wow, amami tu. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah, yeah. Wow. Qualcuno da amare. Yeah. Qualcuno in più. Qualcuno da amare. Quel qualcuno sei tu. Amami tu, lo sai, lo amo tu, onesto con tu, ti prego, amami tu. Let's King, gli Aerosmith. Ci siamo arrivati alla fine anche quest'oggi. Come direbbe Jim Morrison, questa è la fine. Gli appuntamenti per il weekend, come di consueto. Venerdì mi trovate allo Charlotte di Colle Salvetti in Toscana per selezionare un po' di buon rock and roll. Roberto Fricantoni lo troverete invece giovedì prossimo all'interno di Lucca Comics per presentare un fumetto che si intitola Freak e che è dedicato al nostro rocker di riferimento. Caro Spadino, è un piacere chiederti la sigla di questa 117esima puntata, perché vuol dire che è finita e non possiamo più combinare danni, che è già buona come cosa. I commenti sui Beatles in italiano sono sempre positivi, grazie. Pane, burro e rock and roll. Non è vero. La tua colazione rock. Ma noi siamo contro in ogni caso. Pane, burro e rock and roll. Tornerà domani dalle 7 alle 9 qui sulle frequenze di Rock FM. E te vi godi di. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Chiedo veni a tutti gli amici che hanno scritto anche quest'oggi, soprattutto a quelli che richiedevano strombazzate. Ve la faccio collettiva a tutti quanti e intanto saluto Marco Garavelli. Buona giornata, Marco. Ciao Ariel. Ne ricordo solo uno di SMS che non ho letto, che recitava più o meno così: ieri sera stavo ascoltando Rock FM, è passata Sex, Drugs and Rock and Roll, che è la nostra sigla originale di Yanduri, e ho pensato, figo, è una replica di Pane, Burro e Rock and Roll. Invece no, va bene. Beh, abbiamo dato un contributo, hai dato un contributo a questa canzone, tutto sommato. Con 117 puntate. Purtroppo Yanduri non se le gode più le royalties. Però si potrebbe rintracciare qualche parente se si vuole smazzare un po' di SIAE. Io e Frick siamo sempre pronti a controfirmare. Ok. Buona giornata, Marco. Anche fino al mezzodì. Certo. Ci si risente domani. A domattina, ciao. Guarda, Frigo! Ehi, ma quello è Guercio, il topolino della gabbia 33! Proprio lui! Oh, ma è riconoscibile! Tutto pieno di lividi! Cosa gli hanno fatto, Rogna? Beh, niente, ha tentato di evadere durante la notte. Umani bastardi, ma come hanno fatto a conciarlo così? Col calcio balilla. Calcio balilla? Sì, dice che si era nascosto in un buco di un tavolo che gli umani chiamano porta del calcio balilla. E a un certo punto gli hanno sparato dei proiettili giganti in faccia. Maledetti pervertiti. E poi dice che urlavano gol, non si rulla, gol. Sadici bastardi, la pagherete. La pagherete.